Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio, ad una nuova puntata della nostra trasmissione nel corso della quale parleremo dell'emergenza nella quale si sono trovati migliaia di passeggeri che avrebbero dovuto viaggiare lo scorso agosto, ma che devono anche continuare a farlo in queste settimane con Winjet, perché è stata un'estate l'insegna dei disagi per chi nel progettare le sue ferie aveva previsto un volo con la compagnia low cost siciliana Winjet, per l'appunto. La compagnia navigava da tempo in cattive acque, la prospettiva di un accordo con Alitalia aveva reso possibile però il proseguimento dell'attività dallo scorso aprile, quindi la vendita dei biglietti. La trattativa per l'integrazione fra le due compagnie è però fallita e dal 12 agosto, con un certo sconcerto anche nostro perché in quelle settimane ce ne siamo occupati costantemente con l'assoluta certezza che ad un accordo si arrivasse, proprio a ridosso di Ferragosto, dunque per i viaggiatori si è aperto uno scenario a dir poco fastidioso, le trattative si sono interrotte, niente più matrimonio tra Alitalia e Winjet e quindi la compagnia dal 12 agosto ha interrotto praticamente la sua attività. Voli cancellati, procedure di riprotezione tramite altre compagnie, prezzi aggiuntivi, attesa e la prospettiva di un rimborso ancora molto incerta in attesa degli sviluppi della vicenda societaria. Tra l'altro ci sono delle novità perché sembra che si stia mettendo in piedi una cordata di imprenditori siciliani, ma in ogni caso siamo ancora nella condizione più nebulosa possibile. Quello che a noi interessa, a prescindere dalle vicende societarie di Winjet, ci interessa capire invece chi si è trovato a vivere questa brutta avventura in pieno agosto, cioè quella di praticamente avere in mano un biglietto aereo che alla fine è risultato carta straccia, come si è comportato, come si è riprotetto con altre compagnie che hanno dato la loro disponibilità appunto ad accogliere questi passeggeri, che cosa deve fare chi invece ancora non è partito per magari o raggiungere la località di vacanza o ritornare a casa, ha ancora questo biglietto, a chi si deve rivolgere, cosa deve fare. Allora oggi noi ne riparleremo ripercorrendo molto brevemente la vicenda di Winjet, e ci interessa proprio affrontare quasi esclusivamente la condizione dei passeggeri che si sono trovati e che si troveranno magari in difficoltà. Con chi ne parleremo questa mattina? Con l'avvocato Carmelo Calì, legale di Confconsumatori, responsabile tra l'altro del settore trasporti di questa associazione dei consumatori, dal primo momento in prima linea su questa vicenda, non fosse altro. Avvocato Calì, buongiorno, per il fatto che vive a Catania, per cui lì è proprio il quartier generale anche di Winjet. Volente o nolente, lei si è dovuto trovare a gestire sin dal primo momento questa emergenza. Buongiorno intanto e ben ritrovato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Tra l'altro lo abbiamo costantemente disturbato per tutto agosto per farci avere appunto tutte le notizie su questa vicenda di prima mano. Poi sentiremo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, sentiremo Andrea Giannetti, presidente di Assotravel, e sul finire della trasmissione ci collegheremo anche con un esponente di Alitalia, Marco Sansavini, Chief Strategist Officer appunto della compagnia italiana che ha organizzato in queste settimane tantissimi voli speciali appunto per proteggere i passeggeri di Winjet, tantissimi passeggeri di Winjet accolti a bordo appunto sia di voli ordinari che di voli straordinari, come vi dicevo, e sentiremo un po' qual è il punto della situazione e faremo anche qualche commento su questa vicenda dei costi aggiuntivi applicati appunto ai biglietti di chi aveva necessità naturalmente di riproteggersi con questi voli. Non solo l'Italia è intervenuta, anche altre compagnie lo hanno fatto. Noi abbiamo chiamato naturalmente la compagnia che ha sopportato il peso più grande di questa riorganizzazione dei viaggi dei passeggeri Winjet. Tra l'altro ci viene anche un po' da ridere perché proprio mentre stavamo organizzando la puntata di Winjet e questa mattina stavamo completando i preparativi, è scoppiata anche invece la vicenda Lufthansa. Per adesso i disagi, lo avete sentito anche nel giornale radio, sono prevalentemente negli scali di Francoforte, negli scali tedeschi. L'agitazione, lo stato di agitazione del personale appunto della compagnia tedesca ha portato all'annullamento di qualcosa come quasi 300 voli e adesso sarà divertente capire se ci sono anche degli italiani e che cosa potranno fare appunto per poter superare anche i disagi che naturalmente dovranno sopportare anche questi. Poi lo commenteremo con i nostri ospiti. Allora, se siete all'ascolto e se vi siete ritrovati, così come è successo al mio assistente, a Marco Lombardo, vittime vostro malgrado delle vicende di Winjet, raccontatecelo all'800 24 00 24. Oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it oppure andatevi anche a divertire sul nostro profilo Facebook che è a Salvadanaio, è salvadanaio-radio24. La borsa, molto rapidamente, avete sentito anche nelle giornali radio cosa abbiamo raccontato, abbiamo un quadro contrastato, questa mattina abbiamo un quadro positivo per Milano e Spagna, che sono le principali piazze che attendono novità dalla BCE e dalle misure che Mario Draghi intende prendere appunto per restringere un po' gli spread soprattutto dei paesi periferici, quelli che si sono allargati in maniera dirompente negli ultimi mesi, e quindi c'è un più 0,4% in questo momento a Milano. Sono invece negative le altre piazze, Parigi, Francoforte e Londra. Parigi scende dello 0,39%, Francoforte meno 0,23%, Londra meno 0,73%. Presumibilmente queste piazze invece guardano di più che a Mario Draghi, oggi all'intervento di Moody's, l'agenzia di rating, che naturalmente erano un po' che non si facevano sentire. Moody's ha confermato il rating AAA per l'Unione Europea, però ha abbassato da stabile a negativo l'outlook, la prospettiva, per cui abbiamo avuto questo intervento che si fa sentire sulle borse. Ieri Wall Street era chiusa per il Labor Day, oggi il mercato americano riprende le sue contrattazioni, vedremo che stimolo e che contributo darà al mercato europeo. Euro su dollaro 1,26,43, spread fra BTP e Bund 429 punti base. Sì, un'occhiata magari ai migliori titoli di Milano: Mediolanum più 4%, Mediobanca più 4, in attesa del consiglio di amministrazione di domani. Pensate che dal 2 agosto scorso le azioni di Piazzetta Cuccia sono cresciute di qualcosa come il 52%, il titolo di Piazzetta Cuccia ha raddoppiato il suo valore, più 4 appunto sta facendo in questo momento, più 3,58% per A2A, Finmeccanica più 3,42, Salvatore Ferragamo più 2,26%. In calo invece i titoli Fiat, che risentono dei dati pesantissimi, molto negativi sulle immatricolazioni auto in Italia, diffusi ieri sera, meno 20%, sia per le vendite per il lingotto che per il mercato complessivamente, e titoli in calo quest'oggi di circa un punto a Piazza Affari. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, ritorniamo a parlare della calda estate, non certo solo dal punto di vista meteorologico, di chi non ha potuto volare con Winjet. Al momento non c'è nessuna comunicazione, il volo volerà tranquillamente. Rispondeva ancora così, il 7 agosto, il call center di Winjet ai passeggeri che chiedevano rassicurazioni in merito ai voli prenotati, alla luce delle notizie ben poco tranquillizzanti sul futuro della compagnia aerea siciliana. Pochi giorni dopo, a ridosso di Ferragosto, sarebbe definitivamente fallita la trattativa che ne prevedeva l'acquisizione da parte di Alitalia. La conseguenza? La cancellazione dei voli previsti per le tratte servite dal vettore low cost, da tempo in difficoltà, che oltre ai 300.000 passeggeri lasciati a terra quest'estate, vede direttamente coinvolti circa 800 lavoratori, più altri 300 dell'indotto. Si attende ancora la conclusione della vicenda societaria. In queste settimane di agosto è sceso in campo il ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, e si è anche parlato di una possibile cordata di imprenditori siciliani disposti a rilevare Winjet. Nel frattempo, gli sfortunati viaggiatori sono stati costretti a riorganizzare i loro spostamenti, sopportando talvolta lunghe attese in aeroporto. In alcuni casi hanno dovuto rinunciare del tutto alle vacanze. Altre compagnie aeree hanno messo a disposizione voli di riprotezione sostitutivi, al costo di 75-80 euro, ma anche provvedendo a questa soluzione non sono mancate per alcuni le brutte sorprese. Diversi passeggeri hanno segnalato alle associazioni dei consumatori che i prezzi dei nuovi biglietti si rivelavano più alti di quanto promesso, che la telefonata di conferma dal call center della compagnia sostitutiva non arrivava mai, che su voli dichiarati completi per la riprotezione si trovavano ancora posti, su internet, a prezzi ben più salati. Vacanze turbolente, insomma. E a chi aveva scelto di volare Winjet tocca restare con le cinture ben allacciate. Giunti ormai a settembre, infatti, le prospettive di un rimborso sono ancora del tutto incerte. È Allora, dai, che ce la farai, vola insieme a noi. Al momento con WinJet non si può più volare, ma chi ha un biglietto in mano di questa compagnia aerea può rivolgersi ad altre compagnie, appunto, che potranno garantire le cosiddette riprotezioni, come si definiscono in gergo tecnico. Mi rendo conto che lo scontento per tutte le persone a cui tutto sommato poi effettivamente in qualche maniera, anche se parzialmente è stata rovinata la vacanza, può essere altissimo. Dobbiamo però riconoscere che effettivamente risistemare 300.000 passeggeri nel bel mezzo dell'altissima stagione, dovete riconoscere che potrebbe anche essere stato piuttosto complicato per le compagnie che si sono incaricate di tutto questo. Detto ciò, ciò non giustifica naturalmente che i costi aggiuntivi che molti passeggeri hanno dovuto sopportare qualche volta siano stati esagerati, e tutta un'altra serie appunto di complicazioni che ci sono state, e in ogni caso anche questa appunto vanno riconosciute. Avvocato Carmelo Calì, legale di Confconsumatori, ci racconti un po' Catania qual è il clima in queste ore, qual è la situazione e quante ancora persone, quanti passeggeri con questi biglietti in mano si stanno rivolgendo a voi perché non sanno che pesci prendere, non sanno come gestire la loro condizione. Ma ancora oggi, fino a questa mattina, le persone chiedono cosa fare, perché naturalmente, oltre a quelli che non sono partiti, che sono tanti, ci sono quelli che dovevano partire, che sono altrettanti. Quindi c'è una situazione di incertezza, perché spesso le persone si scontrano con la richiesta di riprotezione che poi magari non viene evasa oppure viene evasa parzialmente. Abbiamo avuto anche segnalazioni di voli che sarebbero pieni e quindi protezione che non sarebbe più possibile, e quindi diciamo i disagi purtroppo ancora oggi continuano, perché quelli che erano i problemi sorti nell'immediatezza sono tutt'altro che risolti, perché chi deve partire deve fare conti sempre con gli stessi problemi. D'altronde, avvocato Calì, ha riconosciuto però che organizzare perfettamente i voli, gli spostamenti, i viaggi di queste persone in un periodo come agosto era tutt'altro che facile, se tra l'altro ricordiamo che questa emergenza, che comunque era un focolaio che serpeggiava dalle prime settimane, dalle prime giornate di agosto, in realtà è scoppiato il 12 agosto, quando appunto WinJet ha deciso di interrompere la sua attività, per cui non va anche riconosciuto questo aspetto, non trova. No, chiaramente comprendiamo benissimo cosa significa riproteggere tutti questi passeggeri, nessuno nega lo sforzo che si sta facendo. Abbiamo censurato comportamenti poco virtuosi, quale ad esempio quello di far pagare delle somme in più di quelle che erano state, diciamo, convenute, però diciamo per il resto comprendiamo benissimo lo sforzo organizzativo, non indifferente. Poi magari faremo nomi e cognomi, avvocato Calì. Adesso vado all'avvocato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, perché poi lo lasciamo, e volevo appunto sentire da lui, perché tra tutti i comunicati stampa che il Codacons ha diramato in queste settimane, monitorando con grande attenzione anche questa vicenda, ce n'è uno in particolar modo che ha sollecitato la nostra attenzione, quello dove Codacons sostiene che si sarebbero dovuti diffidare tutti i principali circuiti di pagamento delle carte di credito e le associazioni di categoria delle agenzie di viaggio a non riversare alla compagnia WinJet il denaro incassato dai consumatori per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Avvocato Rienzi, ancora buongiorno, non ho salutata per la verità prima. Oggi il Codacons che iniziativa ha intenzione di intraprendere sulla vicenda WinJet? Intanto, per sapere quello che è successo basta andare sul blog carlorienzi.it, dove sono centinaia di segnalazioni che fanno capire come questa riprotezione è stato solo un business per le compagnie aeree che sono intervenute. Un business che noi abbiamo configurato anche in alcuni casi come truffa. Abbiamo inviato una denuncia alla Procura della Repubblica sia per questo business sia per il fatto che ovviamente c'è stato questo insolvente. Avvocato, la sentiamo malissimo, non so se è lontano dal suo microfono, no, se ha un viva voce, un auricolare. È il nostro. Proviamo a togliere l'auricolare. Bravo, grazie. Come sentite? Molto meglio, grazie. Va bene, allora dicevo che c'è stato questo business delle compagnie, noi abbiamo fatto una denuncia alla Procura della Repubblica, abbiamo chiesto di sequestrare il denaro perché dovrebbe stare ancora in parte nelle casse di WinJet, perché non è fallito WinJet, e in parte presso le agenzie di viaggio o presso le carte di credito, che devono assolutamente, altrimenti commettono una situazione indebita, diffidarsi da noi, trattenere questi soldi e restituirli ai cittadini. Questa è la cosa principale, ma ovviamente poi si tratta di recuperare quello che non è possibile recuperare così, e noi abbiamo ipotizzato e stiamo preparando un ricorso per il risarcimento dei danni nei confronti dell'ENAC, perché l'ENAC sapeva, e ha detto il presidente Riccio, che sapeva da marzo di questa situazione, quindi nei suoi doveri istituzionali c'era quello di avvertire le agenzie o gli acquirenti che l'acquisto veniva fatto proprio il primo, cioè che c'era una situazione di insolvenza. Troppi crack abbiamo visto nel campo delle compagnie aeree low cost. Ma che si può fare questo ENAC se lascia succedere questi eventi senza proteggere e prevenirli come dovrebbe fare? Sì, anche per presidente Riggio è stata un'estate difficile. Senta, soffermandoci per un attimo sui passeggeri che avevano biglietti, che ce li hanno ancora, dunque mi dice il percorso che voi suggerite di fare per chiedere questo rimborso o questo indennizzo che chissà mai quando arriverà direttamente a Winjet, lei suggerisce di farlo? Il percorso è questo, c'è una raccomandata da inviare sia a Winjet che al gestore della carta di credito, sia per una carta di credito, o all'agenzia, in questo caso è qualsiasi rimborso, perché il codice del consumo lo prevede, dove si è acquistato il pacchetto con il volo Winger. Questa raccomandata poi si può, andando sempre sul nostro sito, aderire a questo ricorso collettivo, questo mega ricorso, per avere i danni anche dell'ENAC. Quindi non soltanto avere indietro i soldi del biglietto, ma non ci dimentichiamo che si sono rovinate le vacanze. E quindi sarebbe necessario un risarcimento di altra natura. Avvocato Rienzi, grazie per la sua collaborazione, noi la lasciamo. Adesso volevo solo salutare Andrea Giannetti, presidente di Assotravel, che naturalmente avrà l'occasione di esprimere la sua posizione anche sulle considerazioni fatte da Rienzi qualche istante fa. Giannetti, buongiorno intanto. Buongiorno. 300.000 passeggeri che si sono trovati con un biglietto Winjet senza alcun valore. Volevo però naturalmente esprimere anche tutta la nostra solidarietà agli 800 dipendenti di questa compagnia, più gli oltre 300 credo dell'indotto, che lavorano per questa società e che adesso invece sono a spasso. Allora, Andrea Giannetti, presidente di Assotravel, buongiorno. Le agenzie di viaggio come hanno gestito questa vicenda in queste settimane, almeno quelle che aderiscono alla sua organizzazione? Per quanto riguarda il mondo delle agenzie di viaggio, la gestione era purtroppo semplice. Per chiarire esattamente una cosa che ha detto il presidente Rienzi, nessuna agenzia di viaggio poteva avere in mano denaro della Winjet, perché viene tutto automaticamente pagato con le carte di credito, perché la Winjet non passava attraverso i normali circuiti di pagamento delle agenzie IATA, per cui attraverso il BSP, dove eventualmente per un certo periodo il denaro può essere rintracciato. In questo caso in mano alle banche è soltanto la parte dei giudici può decidere o meno se bloccarlo e come redistribuirlo. Quindi anche volendo voi non avreste mai potuto bloccare il denaro incassato dai consumatori e che veniva dirottato direttamente alla compagnia? A un noto viene passata la carta di credito, la quale poi lo gira sul conto della compagnia nei tempi stabiliti, però non rimane mai, nemmeno per un'ora, in mano al sistema delle agenzie di viaggio, per cui non, contrariamente ai sistemi IATA con cui si paga in maniera diversa, per cui in questo caso non c'era nessuna proprio possibilità di affrontare il tema. Certo. Presidente, voi fino a quando avete venduto biglietti di Winjet? Fino all'ultimo giorno, fino al 12 agosto? Ma guardi, il vero problema non si pone, perché la richiesta del cliente di Winjet, quando poi il tema era caldo, chiaramente è stato cessato di proporre la vendita e anche di aderire a una richiesta di vendita di Winjet. Quello che è stato il grande problema è stato tentare di riproteggere i passeggeri che avevano acquistato il biglietto individualmente online. Certo. E che poi non riuscivano oggettivamente, per il periodo di altissima stagione, a trovare spazi per recarsi nel posto. Quindi c'è anche chi, avendo acquistato biglietti individualmente con il sito online, si è rivolto alle agenzie di viaggio per tentare di ripristinare la propria situazione? Cioè, per trovare una soluzione diversa per arrivare nel luogo di destinazione di vacanza. Certo. E in questo caso è stato chiaramente l'impegno degli agenti di viaggio che sono stati chiamati a questo, chiaramente è stato importante, ma poco di vantaggio economico poteva essere dato, perché le altre compagnie non avevano, visto il periodo, negli spazi né tantomeno il prezzo. Faccio salvo il ragionamento di riprotezione laddove c'è la disponibilità con la differenza di 75-80 euro per chi ha deciso, per le compagnie che hanno deciso di sostenere le problematiche dei passeggeri Wingjet. Secondo lei come è stata gestita l'intera situazione, Presidente Giannetti? Ma quando accade queste bugate, cioè, c'erano poi sono livelli di situazioni diverse, laddove c'era un pacchetto turistico e rispondeva il tour operator o l'agente di viaggio che lo organizzava, e lì chiaramente è stata una storia diversa, dove è stato possibile, sono state trovate macchine, cioè aerei in sostituzione per portare le persone a destinazione, e in altri casi, visto il periodo, il ritardo è stato notevole. Però diciamo che da questo punto di vista la crisi è stata, se non altro, gestita, mentre la grande situazione si è verificata proprio per i voli individuali, cioè persone che avevano acquistato magari un servizio turistico in loco e che dovevano raggiungerlo, anche in gran parte siciliani che andavano in vacanza da altre parti d'Italia o all'estero, e non potevano raggiungerlo perché la Wingjet aveva cessato il volo. Certo. E le altre compagnie non avevano oggettivamente spazi per riproteggere infatti tutti i passeggeri. E infatti, all'Italia, poi ce lo racconteranno, hanno dovuto mettere in piedi una bella mole di voli speciali straordinari. Voi immaginate, con il traffico aereo che c'è in questo periodo, che cosa abbia significato anche attrezzarsi in questo modo. Allora vorrei sentire un paio di ascoltatori, poi torno all'avvocato Calì, perché proprio ieri la Confconsumatori, che gestisce a Catania lo sportello del turista, quindi veramente una attività intensissima in queste settimane, ha diramato una sorta di vademecum, chiamiamolo così, con le risposte alle domande più frequenti che i passeggeri hanno rivolto a questo sportello sul caso Wingjet in questi giorni. Adesso sentiremo gli ascoltatori e poi vedremo se alle loro domande troveremo risposta anche in questa lista compilata da Confconsumatori. Gianfranco da Padova, buongiorno a lei. Gianfranco? Pronto? Eccoci, sì, buongiorno. Allora. Buongiorno. Niente, io volevo chiedere ai tecnici come dovevano comportarsi chi aveva sottoscritto dei carnet da 10 voli. Quanti ne ha consumati, Gianfranco? Pagare. Nessuno? Ancora intonso il carnet? Ah, ecco, quindi no, più no, o meno intonso. Però molto pochi. Quanto costa un carnet da 10 corse? Che tipo di tragitto dovevano coprire? 750 euro. Certo, quindi insomma una bella cifra sborsata con grande anticipo. Grazie Gianfranco. Adesso sentiremo Calì, ci metto insieme anche la domanda di Ivan da Rimini. Ivan. Buongiorno. Ivan, buongiorno. Niente, praticamente mia moglie si trovava a Kiev in Ucraina, era partita con un volo Wingjet e doveva ritornare il 21 di agosto. Sono stato contattato dall'aeroporto di Rimini, la compagnia Livingston, e mi hanno proposto un viaggio del costo di 420 euro di solo ritorno per la bambina e per mia moglie. Complessivo? Un volo complessivo? Complessivo, soltanto ritorno 420 euro. Mentre io ho dovuto acquistare, perché mia moglie doveva rientrare al lavoro, un volo della Wizz Air che atterra a Treviso, pagandolo soltanto 295 euro. Questa sarebbe la famosa riprotezione dell'ENAC. Lo so, d'altronde le compagnie. Quindi mi faccia capire, ma lei per primo si era rivolta alla Livingston per fare atterrare direttamente i suoi familiari a Rimini, e questo era il prezzo che le era stato proposto, no? Dopodiché... No, sono stato contattato direttamente dall'aeroporto di Rimini. Quindi loro avevano, diciamo, una lista. Un volo a 420 euro, praticamente un'enormità, visto che la Wizz Air con 295 euro mi ha offerto lo 130 volo, euro però, in più. Sono dovuto andare a Treviso. E mia moglie, alla fine della fiera, Ivan, tanto avrà speso sopra giù un centinaio di euro per andare avanti e dietro a Treviso, no? No, il problema è che mia moglie, per raggiungere Kiev dal posto dove si trovava, doveva fare 1000 chilometri con la macchina. Fossero un euro, fossero 10, fossero 100, in ogni caso, insomma, non era ciò che vi aspettavate come conclusione di questa vacanza, almeno sua moglie con la sua bambina. Sentiamo adesso l'avvocato Calì. Grazie Ivan. Avvocato, allora, intanto il carnet viaggi è la domanda numero 2 della vostra lista, pubblicata anche, credo, sul sito di Confconsumatori. Allora, per i titolari di carnet viaggi hanno perso tutto? Allora, noi abbiamo chiesto all'ENAC che si faccia promotore presso le compagnie affinché i titolari di carnet possano essere equiparati ai titolari di biglietti non utilizzati. Abbiamo sollecitato una risposta fino a venerdì, ci è stato promesso che entro queste settimane ci faranno sapere. Ci auguriamo che questa risposta possa essere positiva, perché i titolari di carnet sono tantissimi per quello che abbiamo avuto modo di sperimentare, perché nel momento in cui abbiamo sollevato il caso lo abbiamo fatto perché ci siamo reso conto che avevamo tante segnalazioni, ma dal momento in cui abbiamo sollevato il caso le segnalazioni sono state un crescendo fino a oggi di ulteriori. Quindi certo, anche perché vorrei dire che magari, non lo so, non dico che non abbia diritto a nessun risarcimento, ma chi ha prenotato un viaggio tipo il 2, il 3 agosto magari un pochino se l'è andata anche a cercare. Chi ha in mano un carnet sicuramente lo ha acquistato in tempi assolutamente non sospetti e non immaginava di trovarsi in una situazione del genere, di buttare via così del denaro, per cui è chiaro che anche in questo caso si ha forse ancora di più bisogno di un indennizzo per queste persone. Certamente, anche perché spesso si tratta o di studenti siciliani che studiano appunto fuori e che hanno la possibilità di spostarsi a un prezzo conveniente, oppure di persone che lavorano al nord e che hanno la possibilità di ricongiungersi alla famiglia, certo, con una certa frequenza, e quindi utilizzano, diciamo, il target dei possessori di carnet, diciamo, in genere la maggioranza abbiamo visto sono questi due tipi di persone. Poi in ogni caso c'è chi anche lo fa per motivi di lavoro, di affari, certamente anche questi. Noi ci auguriamo, fermo restando poi quello che può essere il rimborso del prezzo corrisposto un domani. Ecco, quindi secondo lei l'ascoltatore che ci ha chiamato cosa deve fare? A chi può chiedere? Deve fare una iniziativa formale, magari appoggiandosi ad un'associazione dei consumatori? Allora, noi per quanto riguarda i rimborsi, sia per i titolari di carnet, sia per i titolari di biglietti, stiamo consigliando di attendere prima di inoltrare una raccomandata. Naturalmente, se qualcuno lo vuole fare, lo può fare tranquillamente, però noi stiamo consigliando di attendere perché innanzitutto non c'è una scadenza, non c'è nessun termine di scadenza, l'unico termine è quello di decadenza di 2 anni, che quindi, diciamo, è abbastanza lontano. Quindi chi non fa oggi una raccomandata non decade da nessun diritto. Noi stiamo consigliando quindi di non entrare nessuna richiesta, perché tutto dipenderà dall'evolversi societario di Winjet, e quindi riteniamo che sia opportuno mirare ogni richiesta risarcitoria rispetto a quello che sarà il futuro societario della compagnia. Quindi aspettiamo un attimo prima di intraprendere delle iniziative, magari che così poi non magari qualche volta anche un po' compilare in maniera errata una richiesta di risarcimento potrebbe portare anche ad una contestazione della formalità, per cui aspettiamo ancora un attimino, perché tanto non ci corre dietro nessuno, ormai la vacanza è stata rovinata. Le chiedo invece un giudizio, avvocato Calì, sul secondo caso che abbiamo ascoltato, Ivan da Rimini, e come è stata trattata differentemente appunto il viaggio di ritorno da Kiev della moglie di sua figlia a seconda delle compagnie appunto che potevano gestire eventualmente questo rientro. Ma se non ho capito male, si è trattato di un prestito superiore che è stato fatto corrispondere a quello. Sì, sì, infatti. Ecco, perfetto. Allora, questo è un, diciamo, come si è avuto modo di vedere, noi abbiamo avuto modo di riscontrare questi comportamenti, li abbiamo segnalati all'ENAC. L'ENAC è intervenuto, ha avviato un'attività di monitoraggio sulle compagnie che diciamo ha avuto esiti positivi, anche se nelle ultime ore abbiamo avuto qualche segnalazione di qualche rigurgito di tentativi di rialzare di nuovo i prezzi, quindi stiamo cercando di capire se c'è ancora qualche ritorno su questa cosa. In ogni caso, nell'immediatezza e nei giorni successivi, fino a, diciamo, a ieri, abbiamo visto che le compagnie hanno mantenuto i prezzi che si erano impegnate a corrispondere. Vedo tra l'altro adesso... Stavo controllando Alitalia, perché fra un po' sentiremo Marco Sansavini con Alitalia, appunto un volo da Kiev era di 250 euro, quindi ancora inferiore rispetto alla seconda opzione individuata dall'ascoltatore ci ha chiamato. Poi ci possono essere casi singoli, però in ogni caso la cosa importante che poi è venuta fuori nell'incontro all'ENAC con le compagnie aeree, che le compagnie proprio sulla base di questo si sono impegnate a rimborsare ai passeggeri le somme che avevano chiesto in più, si sono impegnate a contattare i passeggeri. Noi diciamo, se non vi contatteranno, inoltrate formalmente presente una richiesta, sul nostro sito c'è anche uno schema di lettera che si può scaricare, in cui appunto si chiede la differenza fra quello che è il prezzo, diciamo, concordato o in qualche modo definito, e quello che è il prezzo che il passeggero ha effettivamente corrisposto. Molto bene. Marco Sansavini, Alitalia. Oggi è il 4 settembre, dal 12 agosto quanti passeggeri WinJet avete riprotetto, a che condizioni, quanti voli speciali avete organizzato? Sì, dal 12 di agosto ad oggi quasi 300 voli speciali, quasi tutti notturni, è soltanto da pochi giorni che siamo in grado di operare dei voli speciali anche di giorno, perché in realtà, essendo avvenuto il problema di WinJet proprio nel periodo di picco, gran parte delle compagnie aeree non avevano proprio la disponibilità fisica degli aeromobili che erano già occupati, e quindi ci siamo in qualche modo inventati una soluzione che non era prevista, che era quella appunto di fare volare i passeggeri che erano rimasti a terra anche di notte. Sono circa 300 voli in 20 giorni, sono 22.000 passeggeri su questi voli speciali, più ovviamente tutti i passeggeri che abbiamo anche accolto sui voli ordinari. L'Italia è la maggiore compagnia che serve la Sicilia, 44 voli al giorno, e quindi anche su questi un numero molto significativo, tutti quanti alle tariffe diciamo concordate, definite per i passeggeri WinJet. Le ricordiamo magari, dottor Sansavini, così anche gli ascoltatori che ancora devono riorganizzarsi per ripartire sanno che quelli sono i punti di partenza, per cui magari se viene un po' caricato il prezzo non è esattamente un comportamento corretto da parte del vettore, partendo dai 75 euro di base. Sì, beh, in effetti queste sono le tariffe che applica l'Italia. ENAC si era limitata a dare una indicazione che era quella di essere nell'intorno degli 80 euro. Noi abbiamo deciso di fare 75 euro. Ci tengo a sottolineare che sono tutto incluso, quindi anche le tasse che noi in realtà poi giriamo agli aeroporti piuttosto che alle autorità. Quindi diciamo il guadagno effettivo di Alitalia è anche inferiore, intorno ai 50 euro. Quindi 75 euro per quanto riguarda le tratte domestiche, e quindi tutte le tratte in Italia, poi 120 euro per quelli invece non diretti ma indiretti, cioè quelli che passano attraverso Roma, e poi per le tratte internazionali a partire da 150 euro, che è il prezzo che applichiamo su Barcellona. E poi abbiamo detto i 250, prima riferendo anche il caso dell'ascoltatore che doveva far rientrare i familiari da Kiev. E nei giorni scorsi sulle 24 ore ha pubblicato anche la testimonianza di un collega che doveva rientrare da Palermo e che appunto, avendo un biglietto WinJet, ha avuto bisogno di una riprotezione, credo si sia rivolto al call center di Alitalia, e naturalmente c'è stato un po' di caos per riprenotare il suo rientro su Milano. Non è stato accontentato per quello che riguarda il giorno, d'altronde si era a ridosso di Ferragosto, ma racconta anche qual è la procedura che si deve seguire per chiedere di essere riprotetti, dottor Sansavini, perché se non ho capito male occorre rivolgersi al numero telefonico dedicato a questa emergenza, e poi il passeggero che ha questa necessità deve essere richiamato dal vostro operatore? Allora sì, il processo è questo: noi abbiamo istituito un numero dedicato che è 06 65 85 90 30, nessun costo aggiuntivo, nessun costo che aumenta, insomma la chiamata ordinaria. Il collega del Sole dice che invece ha dovuto pagare anche un bel po' per questa telefonata, è gratuita? Assolutamente, dipende ovviamente dall'abbonamento di ciascuno, ma la gran parte dei numeri, diciamo 06 in questo caso, come i numeri ordinari, sono gratuiti a seconda dell'abbonamento che si ha. Approfitteremo, lo cercheremo di capire come mai probabilmente, lui ha... No, probabilmente nel suo caso ha fatto il numero ordinario di Alitalia, che è 892010, che in effetti ecco, è un numero che implica un costo diciamo al minuto, però probabilmente non era a conoscenza del numero speciale dedicato appunto che consente ai passeggeri di riorganizzarsi senza alcun costo aggiuntivo. Poi lo metteremo magari anche su Facebook, così almeno daremo un'informazione. Corretta, sì. Per dirle che abbiamo ricevuto a questo numero speciale, immagini, 110.000 chiamate, cioè noi abbiamo raddoppiato la capacità di risposta del nostro customer service. I vostri operatori non ringrazieranno mai abbastanza i signori di WinJet per questa attività estiva. Guardi, in realtà è uno dei componenti diciamo che forse non viene sufficientemente valorizzato, cioè in effetti i vettori hanno compiuto uno sforzo organizzativo che è solo il riflesso di un senso di responsabilità rispetto alla situazione che hanno avuto i passeggeri, null'altro. Però diciamo sono arrivate 110.000 chiamate. Oltre a queste, però, forse la cosa più importante è stata che noi sistematicamente, avendo la lista che abbiamo ricevuto da ENAC dei passeggeri che erano coinvolti, chiamiamo noi sistematicamente i passeggeri dicendo: per il volo di domani noi vediamo che lei ha una prenotazione, abbiamo questa soluzione per lei. Dopodiché in effetti per processare l'emissione del biglietto, visto che sono tariffe speciali che non possono essere emesse immediatamente, occorre un piccolo lavoro in back office, diciamo così tecnicamente, e quindi il passeggero viene poi richiamato con la conferma del biglietto e dell'ora esatta del volo. Una delle particolarità anche è che avendo all'Italia un network molto ampio, spesso anche se non c'è l'opportunità diretta lo stesso giorno sul volo diretto, possiamo offrire una soluzione attraverso il volo indiretto e sempre a 75 euro, cioè quando la tariffa a 75 euro non è disponibile perché anche i voli speciali sono pieni, offriamo la stessa tariffa sullo stesso giorno anche sui voli in diretto. Questo per, diciamo, mantenere la promessa. Questa promessa che noi abbiamo fatto vale fino al completamento del periodo di emergenza, che è il 16 di settembre. Ecco, infatti c'è questa data, anche perché proprio il 16 settembre, poi da lì invece riprenderete l'attività solo sull'ordinario, senza vini? Ma questa è una valutazione che è stata fatta sulla base semplicemente del numero di prenotazioni che abbiamo ricevuto da ENAC e da Winjet, cioè dei 300.000 passeggeri una grande parte era in agosto, ce n'era poi una parte significativa nelle prime due settimane di settembre. Dal 16 di settembre, semplicemente facendo i conti, emerge che non occorreranno più voli speciali, però si verifica la stessa situazione di difficoltà del passeggero, perché quello aveva un biglietto di Winjet che non è più valido, quindi noi dal 16 di settembre non abbiamo più voli speciali, ma garantiamo la stessa tariffa, 75 euro e le altre, anche sui voli ordinari di Alitalia. In quel caso, diciamo, soggetta a disponibilità, cioè se fino al 16 di settembre la garantivamo fino all'ultimo posto disponibile, è chiaro che dal 16 di settembre noi dobbiamo anche fare i conti con le necessità dei clienti e dei passeggeri all'Italia che devono trovare posto su quegli aeromobili e quindi non possiamo più garantirla. Quindi magari il suggerimento è di non muoversi proprio all'ultimo minuto anche per cercare il volo per rientrare o partire. Volevo sentire Marco da Prato, poi torno un attimo anche all'avvocato Calì e Sansavini, poi le vorrei fare anche un'altra domanda perché c'è una provocazione molto importante che ha lanciato anche il Codacons all'inizio della trasmissione. A parte tutti quanti i commenti, Codacons dice, ma insomma, si è trattata di una pura operazione speculativa, anche insomma in qualche maniera l'Italia ha permesso che queste trattative con Winjet fallissero perché si è trattato poi di una trasformazione in business molto importante per la compagnia, dovendo riproteggere questi passeggeri e quindi grande fatturato fatto anche in questo periodo nonostante le tariffe abbastanza contenute che appunto l'ENAC ha fissato. Poi le faremo rispondere anche su questo. Vorrei sentire Marco da Prato però molto rapidamente, ma in realtà non so se riesco a far tutto perché abbiamo due minuti di tempo, quindi Marco veloce, grazie. Sì, salve, noi ci eravamo sentiti inizio agosto, io dovevo tornare da Palermo a Pisa. E noi le avevamo detto non si preoccupi perché tanto tutto è certo, andrà tutto a posto, invece un bel niente. E invece non è stato così, ho rivolato con Alitalia, tutto bene perché 75 euro pagato, compreso un bagaglio in stivala, devo dire, sono stato molto gentili. Un consiglio che posso dare magari è se avete un'urgenza di ritornare invece di aspettare la telefonata di recarsi alla biglietteria. Palermo c'è, e io mi sono recato, l'ho fatto direttamente da lì il biglietto. Benissimo, ecco. Marco, grazie molte. Voleva fare un'altra domanda? Sì. Sì, volevo sapere se, cioè, si rivedranno questi soldi pagati a Winjet. Insomma, se... Le associazioni dei consumatori ci stanno lavorando, avvocato Calì. Cosa diceva il passeggero? Se praticamente lui questi 75 euro in qualche maniera potrà rientrare di allora questo... il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato da parte di Winjet. Poi ha diritto anche a quello che può essere definito il risarcimento danni. All'interno della voce risarcimento danni io inserisco ad esempio le somme che ha dovuto corrispondere ad esempio all'altra seconda compagnia del volo, certo, di protezione. Certo. Quindi certamente poi vi potranno essere anche altre voci di risarcimento, ma certamente anche una differenza minima se il prezzo, ad esempio, ha costato il biglietto Winjet, era costato 50 euro e ha dovuto pagarne 80, e ci sono questi 30 che sono una delle voci di risarcimento che gli spetta. Benissimo, allora non riesco a far commentare a Sansavini quello che dicevo, ma l'importante è che abbiamo dato qualche suggerimento utile ai passeggeri che si sono trovati in queste difficoltà in queste settimane. Non riesco a far intervenire neanche Patrizia da Reggio Emilia, che voleva raccontarci che ha riprenotato con Meridiana, ma mi sfugge qual messaggio, ma non le è stato chiesto il titolo Winjet, quindi avrebbe potuto farlo chiunque, ha pagato complessivamente 380 euro per 4 biglietti. Salvadanaio termina qui, grazie a tutti, ritorniamo domani, monitoraggio sui mercati, sulle obbligazioni, sui titoli di Stato e quant'altro. Buona giornata a tutti.